Sapete che l'Italia è il paese dell'abusivismo, anche purtroppo vantiamo questo primato, ma quello che racconta oggi il Messaggero in prima pagina è davvero qualcosa di incredibile, cioè l'abusivismo ha colpito il cuore dello Stato, abusivismo a Palazzo Giustiniani, poco meno di un monumento, l'ex quartiere generale della massoneria, ora sede del Senato della Repubblica. Palazzo Giustiniani, la sede del Senato, edificio di fine 500 di proprietà del Demanio, che ha fatto, scrive Claudio Marincola, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato condannato in via definitiva a pagare i danni causati a un inquilino del palazzo, un privato cittadino, per una lunga serie di lavori effettuati dal provveditorato alle opere pubbliche del Lazio che hanno messo a rischio la struttura e che sono state giudicate abusive. Lavori a un ascensore, lavori di consolidamento, insomma è stato condannato il ministero al quale ha fatto causa la famiglia Marchioni, che non ha raggiunto l'accordo che sperava e ora è andata avanti e ha ottenuto un risarcimento. Il Messaggero per la verità non quantifica. In ogni caso, abusivismo anche a Palazzo. Nel Palazzo del Senato l'abusivismo, i vicini fanno causa e vincono due sentenze contro Via 20 Settembre, decine di perizie e relazioni e ora tra l'altro le strutture cominciano a cedere. È davvero incredibile questa vicenda raccontata in prima pagina e poi all'interno a pagina 6 sul Messaggero. Che dire, dobbiamo chiudere. Chiudo solo ricordando il tema del nostro sondaggio che vi invito a votare, proposta di legge. Una donna su tre nei vertici aziendali, nei consigli di amministrazione delle aziende. Questo per legge, delle quote rosa nei vertici aziendali. Questa è una proposta di legge sulla quale vi chiediamo il vostro parere. Votate su radio24.it, ora il GR. 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua alle 8:20 minuti in diretta. Abbiamo per la nostra intervista oggi il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Bobbio. Sindaco, buongiorno. La sento un po' male, ma vediamo se miglioriamo la qualità. Allora, ex magistrato antimafia, ex senatore di Alleanza Nazionale, tra l'altro oggi sindaco, che dobbiamo dire, finiano, berlusconiano? Purtroppo la qualità dell'audio è pessima, adesso vediamo di recuperarlo. Come detto, il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Bobbio, questo è il nostro ospite oggi per l'intervista. Purtroppo con i cellulari si sa che la linea va e viene. Come detto, ex magistrato antimafia a Napoli, ex senatore di Alleanza Nazionale, oggi è il sindaco. Dal 2010 tra l'altro ha fatto un regolamento di polizia urbana che ha fatto molto discutere. Perché questo regolamento di polizia urbana ha fatto molto discutere? La questione è legata ad alcuni articoli che sono stati molto discussi, cioè quelli legati soprattutto alle cosiddette minigonne, cioè un regolamento di polizia municipale che viene definito contro le minigonne. L'articolo 4, per esempio, voglio andare a leggerlo mentre guardo dall'altra parte, mi dicono che il cellulare prende, non prende, un minuto fa c'era, ma questo è il bello della diretta, insomma. L'articolo 4, vado a leggerlo, del regolamento della polizia urbana. È vietato aggirarsi, sostarsi, sdraiarsi in costume da bagno, a torso nudo, con abiti assai succinti che provochino oggettiva riprovazione, ad eccezione degli ambiti formalmente destinati alla balneazione. Insomma, qualcuno ha detto è vietato andare in giro con la minigonna. Oppure un altro articolo del regolamento di polizia urbana: dai camerini di servizio nei negozi, dalle latrine, dagli urinatoi ci si può allontanare solo dopo aver rimesso i propri abiti del tutto in ordine. Sindaco, ci siamo? Sembra di sì. Eccoci qua. Hanno detto che ha fatto un regolamento di polizia urbana contro le minigonne. No, è una assoluta mistificazione partita da qualche avversario locale, che rappresentante della stampa locale, che ha cercato in questo modo di avversare un provvedimento sentito e necessario, che tutto fa e ogni, cioè, tutto vuole tranne che vietare le minigonne. Le minigonne non sono neanche menzionate nel testo. Però gli abiti assai succinti, cosa sono gli abiti? Gli abiti assai succinti che suscitano oggettiva riprovazione. In realtà ci rifacciamo ai concetti consolidati nella giurisprudenza, ma anche nella normativa vigente a livello nazionale, di decenza, decoro, buon costume, pubblico scandalo. Mi faccio un esempio, cioè qual è l'abito assai succinto che a lei provoca oggettiva riprovazione? Ma non a me, perché la questione non sono io, ma che è un'oggettiva riprovazione, cioè da parte dell'uomo medio, del buon padre di famiglia, dell'uomo comune, è andare girando mezzi nudi sostanzialmente. In realtà si tratta di finti abiti, ecco, nella previsione astratta di questa norma regolamentare. Finti abiti, cioè che mostrano, cioè uno, non so, cioè mezzi nudi, ecco, per intendersi bisogna trovarsi ad andare girando in pubblica via o in luogo pubblico mezzo nudo, mezzo nudo, che è un'addizione abbastanza chiara sia dal punto di vista lessicale che dal punto di vista del senso comune. Insomma. Che in genere capita più alle donne piuttosto che agli uomini, insomma io di uomini se vuole molto molto svestiti non ne vedo. Questo sì. Ovviamente c'è una, poi nel concetto di mezzo nudo sta anche la volontà di chi ci si mette, e capita più spesso alle donne, ma non capita certo alle donne normali di andare girando volontariamente mezze nude. Parliamo di, per esempio, di alcune categorie piuttosto. Cioè ha fatto, cioè, il regolamento che prevede anche contro la prostituzione, mi sembra di capire, no? anche se la mano è un fenomeno sostanzialmente assente, però come ogni norma, una norma viene adottata in via generale e astratta, cioè questo regolamento, come diciamo, era dovere dell'amministrazione, non è stato adottato diciamo per mettere rimedio a casi dilaganti o a casi concreti di particolare natura. È stato adottato per dettare delle regole di comportamento, delle coordinate ben chiare per tutti i cittadini, sia in relazione a vicende che si verificano usualmente, questo sì, sia in relazione a casi che normalmente a Castellammare non accadono, ma proprio per dare un catalogo completo, almeno tentare di dare un catalogo completo ai cittadini di coordinate di comportamento corretto. Senta, leggo invece l'articolo 18, sempre di questo regolamento di polizia urbana, che dai camerini di servizio nei negozi, dalle latrine, dagli urinatoi ci si può allontanare solo dopo aver rimesso i propri abiti del tutto in ordine. Ma c'è bisogno di... Parliamo di bagni pubblici spesso, comunque di servizi igienici o appunto diciamo, utilizzati per un esercizio di bar quando si esce da lì, o in bagni pubblici che pure esistono a Castellammare. Ma capito, ma cioè, c'è bisogno di ricomporsi insomma prima di uscire. Devo dire, cioè, da questo punto di vista magari qualche caso concreto in più al quale ci siamo ispirati c'è rispetto a quelli delle persone mezze nude. E noi abbiamo anche una forte presenza di immigrazione extracomunitaria e diciamo di immigrazione anche illegale, che stiamo comunque contrastando e reprimendo per la nostra parte, che comunque adotta spesso comportamenti ostili di comportamento, non per niente consoni al decoro e alla vita ordinata dei cittadini di Castellammare. E poi la bestemmia, cioè non si può bestemmiare. La bestemmia, mi piace dire, perché è la verità peraltro, che questo regolamento è stato da noi concepito proprio per garantire la libertà di tutti e di ciascuno. La libertà di ognuno, come dicevo, una vecchia massima, finisce dove comincia quella degli altri. Credo che sia giusto e doveroso tutelare il senso di religione, il senso di appartenenza religiosa di ognuno. Chiaramente senza neanche riferirsi esclusivamente alla religione cattolica. Sì. Noi vietiamo la bestemmia in generale riferita anche ad altre religioni. Vabbè, è che se la sono preoccupato, cioè ho visto anche una manifestazione di alcune donne in minigonna, dice ma vive nel Medioevo il sindaco, hanno manifestato il giorno dell'approvazione del regolamento, eccole qui le minigonne che lui vuole vietare, vuole... No, per la verità erano quattro gatti, per così dire, erano molti di più i giornalisti presenti per assistere a questa pseudo manifestazione. Quattro gatti, le dice. Sì. In realtà la cittadinanza ha reagito molto bene, e paradossalmente, anzi non paradossalmente, se volessimo ribaltare questa pretestuosa, immotivata ideologica accusa, dovrei dire che questo regolamento viene adottato proprio per reagire a un dilagante neomedievo. Certe mancanze di regole, certi comportamenti assolutamente fuori ogni accettabilità comune sono più da medioevo che non da era moderna. Senta, per concludere, sindaco, io ho detto lei ex magistrato antimafia, ex senatore di Alleanza Nazionale, adesso conchistato, ma è finiano o berlusconiano? Sindaco. No, fare il sindaco è una cosa, no, ho capito, ma è finiano, difficoltà incredibile, ci manteniamo concentrati sull'attività da sindaco. No, quello sì, però è, cos'è, PDL o FLI? Ma no, io sono del PDL, appartengo al PDL, milito nel PDL perché ritengo che la continuità dal punto di vista della distanza politica rappresenta ancora un valore. Allora, ci svegli questa cosa, lei non ce lo doveva svelare, ma lei è andato da Berlusconi nei giorni scorsi, è vero? No, Berlusconi è stato a Napoli qualche sera fa, il coordinatore regionale, il presidente provinciale del PDL mi hanno chiesto di intervenire anche per questa questione che mi ha fatto tanto scalpore. Come l'ha trovato? Perché sa, di sti tempi è un po' ancora sotto, no? C'è questa vicenda che è venuta fuori, l'ha trovato bene, su di morale? Presidente del Consiglio assolutamente combattivo, assolutamente determinato e motivato nelle sue iniziative di governo, nelle sue scelte. Va bene, sindaco, la ringrazio per essere stato con noi. Sindaco Luigi Bobbio di Castellammare di Stabia, grazie. E allora ci fermiamo, pubblicità e meteo, e poi noi parliamo del nostro sondaggio di che cosa? Questa proposta di legge che vuole mettere una donna su tre nei vertici aziendali, nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa. Questo per legge. Quote rosa nei vertici manageriali. Che ne pensate? 800 24 00 24 per intervenire in diretta. 24 mattino. Alle 8:34 minuti, eccoci qua nuovamente in diretta a parlare di, nel nostro sondaggio, quelle che sono state definite da un nuovo tentativo di inserire le quote rosa, in questo caso nei vertici aziendali, nei vertici manageriali delle nostre aziende. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. La proposta di legge è bipartisan, come si dice in questi casi, e in maniera molto molto succinta, ma poi ce lo spiegherà una delle due proponenti, impone una percentuale di almeno il 30% del genere meno rappresentato nella composizione dei consigli di amministrazione dei collegi sindacali delle società quotate in borsa. Il genere meno rappresentato, inutile negarlo, è quello femminile, e dunque da qui l'idea di imporre il 30% nei consigli di amministrazione, quindi dei vertici delle aziende, di donne. Onorevole Alessia Mosca, buongiorno. Buongiorno. Del Partito Democratico. Lei con Dalla Golfo del PDL siete le firmatarie di questo testo di legge. L'ho sintetizzata bene, cioè nel senso mettere per legge il 30% di presenze, io dico di donne perché il genere meno rappresentato è quello, insomma, diciamo, non conosco CDA nel quale le donne siano più degli uomini. Lei ne conosce? Ne conosco, no. Non ci sono in effetti, e comunque sono di fatto funzionerebbero anche al contrario. E poi c'è una precisazione che voglio subito fare: si tratta di una legge a tempo, se così si può dire, nel senso che è una imposizione solo per dare uno shock iniziale, ma ha una durata massima di 3 mandati, cioè di 9 anni. Perfetto. Pertanto, se le cose entro 9 anni non si automatizzano, la legge decade, di fatto non c'è più nessuna imposizione. Quindi lei dice un modo per dare uno shock. Tra l'altro voglio salutare due ospiti, le abbiamo messo due critici, così la mettiamo subito in minoranza, onorevole Mosca, non so se non ce ne abbia male, il professor Alessandro De Nicola, che insegna diritto commerciale all'Università Bocconi e presidente anche della Adam Smith Society. Buongiorno professore. Buongiorno. Così come voglio salutare la giornalista del Foglio, autrice del blog Mamma Mia, Diana Zuccheddu. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Benvenuta. Allora, onorevole Mosca, lei in un intervento sul Riformista ha detto ci vuole proprio questo shock, perché chi ci accusa di essere femministe sbaglia, non è più quel vetero femminismo di richieste pretestuose, anche sbagliate, ma ci vorrebbe un nuovo femminismo, un qualcosa che renda davvero, con una campagna seria efficace, il problema della parità di genere da rimettere in primo piano. Ecco, questo è il femminismo che voi volete con questa legge? Ma sì, è un, di, diciamo, un femminismo che non è rivendicazionista di o si vuole mettere in modo barricadero di contrapposizione, semplicemente la diversità nei luoghi di produzione è considerata ormai da tutti un elemento di positività, anche proprio in termini di rendimento complessivo, e quindi la nostra proposta serve proprio per far sì che ci sia un contesto che non sia ostile nei confronti del genere meno rappresentato. Il 30% delle donne è proprio la soglia minima che serve per far sì che ci sia un cambiamento anche nella modalità di approccio e nel contenuto delle decisioni. In fondo la nostra proposta non inventa nulla, perché ricalca delle leggi già in vigore in altri paesi, addirittura paesi che noi prendiamo sempre come modello, come paesi scandinavi, hanno raggiunto questo tipo di condizione proprio grazie a degli interventi normativi. Per esempio, la Norvegia per esempio ha questa legge, ma così pure la Spagna, la Francia la sta approvando adesso, quindi diciamo che è una norma che si sta diffondendo in molti paesi europei. Cioè una cura sciocca. Allora, professor De Nicola, cosa non le piace di questa cura sciocca, che comunque ci spiegano l'onorevole Mosca sarebbe una cura a tempo, no? Visto che poi nel giro di 9 anni le cose dovrebbero in qualche modo, per altre vie magari, ristabilizzarsi. Beh, diciamo è una proposta autoritaria, costosa e irrazionale. È autoritaria perché c'è un leviatano rappresentato dal legislatore che decide al posto degli azionisti quante devono essere le donne o gli uomini all'interno di un consiglio di amministrazione. Quindi ovviamente è una misura illiberale, una costrizione, un obbligo che viene imposto senza considerare che se ci sono società che hanno un azionariato bigotto e che non mette le donne nei consigli di amministrazione per pregiudizi, il primo a punire questo atteggiamento sarà il mercato, perché la società sarà meno efficiente, si priverà di talenti, in questo caso talenti femminili, e quindi perderà quote di mercato. Secondo, è completamente inefficiente, perché si vede che è fatto da persone che non hanno la minima idea di come funzioni una società per azioni. Voi potete immaginare una società per azioni quotata, una piccola quotata con 7 consiglieri di amministrazione, se almeno il 30% devono essere donne, da un mese a quell'altro dovrà cambiare 3 su 7, perché 2 su 7 è certo. Il 29%, 3 su 7, trovare 3 persone non si sa dove, perché evidentemente dovrà mettersi in cerca con cacciatori di teste o mettere delle persone non molto qualificate, sostituendo 3 che invece magari davano un contributo essenziale, quindi dando un 30% a tutti a prescindere, sì. Come al solito diventa costosa. È irrazionale perché la storia delle quote mangia la coda a se stessa, perché sono moltissimi segmenti di popolazione che pensano in qualche modo di essere discriminati, di avere diritto alla rappresentanza. Sono sicuro che le parlamentari che hanno presentato questa legge inorridiscono quando la Lega dice che bisogna dare ai padani una rappresentanza nei posti pubblici maggiore per in Padania. E sicuramente i padani sono la maggioranza in Padania, quindi non è neanche una questione di protezione delle minoranze. È una proposta stupida quella della Lega, ovviamente, perché il merito conta. Uno può dire i concorsi non funzionano, va bene, rimediamo sui concorsi, ma è il merito quello che assegna i posti, e dice così, non il fatto di essere padani. Certo, no? E così come questo dice... E questo vale per tutti i segmenti di popolazione che in qualche modo possono dire noi siamo svantaggiati, allora perché non fare le quote per gli extracomunitari, perché non fare le quote per quelli di etnie diverse, perché non fare le quote per persone che sono sicuramente però svantaggiate? Io professore vorrei inserire qui un elemento dal quale vorrei da Diana Zuncheddu e dall'onorevole Mosca un parere, perché lei ha fatto tutto un bel discorso. C'è un aspetto secondo me da tenere in considerazione, cioè che le donne hanno questa peculiarità biologica che è una straordinaria avventura, ma che sul mondo del lavoro a volte può anche rivelarsi un qualcosa che gli ritorna contro, e che è quello di fare un figlio e diventare mamme. Diana Zuncheddu, perché lei è stata critica? Perché insomma, a parte se metto gli occhiali di chi ha una società quotata, ragiono come il professor Nicola, se metto gli occhiali di chi sono, cioè di una mamma lavoratrice in Italia nel 2010, mi sembra una discussione lunare, cioè è come se a un morto di fame diamo un cucchiaino di caviale dicendogli che costa tantissimo e pregiatissimo e non un piatto di riso. In Italia non abbiamo i servizi che ci sono in Norvegia, in Danimarca e nel nord Europa. In Italia si spende l'1,4% del PIL, dati del 2009 del Tesoro, per famiglia e maternità. Stiamo parlando di questo, stiamo dicendo che in Germania e in Francia si spende il doppio per la maternità e per la famiglia. Cioè una donna, per quanto sia dipendente e quindi abbia diritto a 5 mesi di astensione obbligatoria da lavoro, che sono già un lusso pazzesco rispetto alle nostre colleghe americane, per esempio, finiti questi 5 mesi è il deserto, nel senso che non ci sono gli asili, o meglio ci sono pubblici, ma non c'è mai posto. Le tate costano. Allora che cosa succede? Una donna quando ha un figlio, e quindi è in un momento fragile e delicato della sua vita, questo Stato a cui versiamo tutte queste tasse, in realtà, a parte questi 5 mesi che ripeto sono un lusso e teniamocelo stretto, poi scompare. Quindi dice la proposta di legge forse prende un problema esaminandolo da un punto apicale, magari marginale, rispetto a quello che dovrebbe fare uno Stato, cioè un qualcosa di più complesso? Assolutamente sì, cioè mi sembra tanto un modo per, sì, parliamo di quote rosa, applaudiamoci se riusciamo ad approvarlo, perché che bello, abbiamo pensato alle donne, e io da donna ovviamente penso molto anche alle altre donne, alle altre mamme, alle altre colleghe, però non stiamo parlando dei problemi veri, che sono molto più complessi, molto più difficili da risolvere, lo dimostra il fatto che ancora non lo stiamo risolvendo, lo dimostra il fatto che il quoziente familiare se ne discute da anni, era in un programma elettorale anche dell'ultimo governo e insomma gli ultimi annunci dicono sì, ci stiamo lavorando, ma insomma ancora risultati non se ne vedono. Questi sono i problemi da affrontare secondo me, quindi tutte queste cose a cui io sono contraria per principio e insomma ci tengo a precisarlo, ma se molliamo il livello del principio e scendiamo nella realtà e nella concretezza della vita delle persone, vediamo che le mamme abbandonano il lavoro dopo il primo figlio e quasi sempre dopo il secondo figlio, perché? E questo è il problema, allora lì è lì che bisogna intervenire e decidiamo, sinceramente credo freghi pochissimo alle donne in questo momento, alle donne frega che nel momento più delicato della loro vita, appunto la maternità, in realtà si ritrovano sole e quindi che cosa fanno? Lasciano il lavoro, perché se non hai 800-900 euro al mese da girare alla tua tata che fa il lungo orario, se non hai altri 200-300 euro ogni 3 mesi da versare per i contributi all'INPS, se non hai i nonni che ti aiutano se la tata si ammala o se la tata se ne va all'improvviso nel suo sono paese tutti perché... i problemi no, cioè, sappiamo. Queste sono le cose. Allora, su questo risponderà l'onorevole Mosca, prima però voglio fare ascoltare un ascoltatore, il traffico, e poi a queste obiezioni l'onorevole Mosca replicherà. Massimo da Milano, buongiorno. Sì. Dica Massimo. Sì, io non sono d'accordo su questa proposta, perché se è una proposta che viene fatta a livello, diciamo, pubblico, cariche pubbliche, Parlamento, Regione, Provincia, mi sta bene, ma nella sfera privata, secondo me, uno potrebbe avere tutte donne perché sono bravi o tutti uomini perché sono bravi. Cioè lei però dice la vorrebbe paradossalmente o estesa a 360 gradi oppure no? No, secondo me uno deve essere libero di scegliere chi vuole, perché nell'ambito privato uno mette una persona perché è valida, indipendentemente che sia uomo o che sia donna. Io la vedo così. Vabbè, la meritocrazia, però è su questo che l'onorevole Mosca con l'onorevole Golfo stanno cercando di far capire che a volte purtroppo entrano anche altre questioni nella scelta e in alcuni casi forse essere donna, essere mamma soprattutto non aiuta, ma dopo il traffico ripartiamo da qui. Io sono o blanco o nero, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora il 61% di chi vota su Radio24.it dice no, non siamo d'accordo a questa proposta di legge, ne stiamo discutendo, mettere per legge una donna su 3 nei vertici aziendali, nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa, una legge provvisoria, una legge a tempo. Onorevole Alessia Mosca del Partito Democratico risponda sia alle critiche di De Nicola, che l'ha definita autoritaria, costosa e irrazionale questa proposta di legge, sia a Diana Zuncheddu che dice ma fate altro voi della politica, occupatevi delle cose, non so, il quoziente familiare, altre tematiche per favorire l'essere mamma. Ma inizio subito da questa argomentazione. Questa proposta non è certamente alternativa rispetto a tutto ciò che riguarda la vita quotidiana di tutte le donne e di tutte le mamme che lavorano. Io personalmente sono prima firmataria di altre 5 proposte di legge proprio su questi temi, che vanno dalla detrazione per le spese di cura, piuttosto che la proposta che ha un iter più avanzato, cioè l'introduzione dei congedi di paternità. Il Partito Democratico, così come il Partito di partiti di maggioranza, hanno depositato altre proposte di legge. Questa è quella che ha avuto un'ampia discussione anche pubblica e che è a uno stadio più avanzato semplicemente, ma certamente non è alternativa e condivido pienamente quel punto di vista. Per quanto riguarda la questione di questa proposta come costosa, certamente questa è una proposta che ha costo assolutamente zero, quindi sgompriamo subito il campo da questo punto, e il fatto che noi l'abbiamo depositata senza conoscere la realtà, anche questo francamente mi sento subito di smentirlo, perché l'ho scritta insieme a persone che hanno fatto parte e fanno parte di consigli di amministrazione, perché le leggi non si scrivono nel chiuso proprio studio, ma si prevede una sostituzione, cioè effettivamente il professor De Nicola dice mettiamo che passa domani la legge, c'è un consiglio di amministrazione di soli uomini, al primo rinnovo. Cioè sì. Alcuni uomini se ne devono andare a casa in quanto uomini, rinnovo sì, ma diciamo subito anche questa cosa a onor di onestà: il mondo dei consigli di amministrazione, lo sappiamo tutti, è uno dei luoghi più bloccati d'Italia. Si parla tanto di meritocrazia, di rendere più mobile questo paese. Sappiamo benissimo che all'interno dei consigli di amministrazione in Italia fanno parte sempre le stesse persone che o fanno parte di più consigli di amministrazione o si scambiano da un consiglio di amministrazione all'altro. Io non vorrei, ma non voglio pensare che ci sia malafede, ma non vorrei che le critiche di chi si accanisce in modo così viscerale contro la nostra proposta non sia semplicemente una difesa di posizioni, perché il fatto di introdurre il 30% di aria fresca, di persone nuove, toglie la possibilità di mantenere Sentiamo. I posti che sono stati conquistati. Professor De Nicola, lei è un conservatore che vuole mantenere lo statu quo. Allora, dunque, questa cosa fa, non vorrei che questo che viene detto deriva dall'esperienza personale di chi, essendo stato catapultato in politica e essendo messo in una lista senza alcuna esperienza, pensa che questa cosa sia replicabile anche nel mondo reale. Ma quindi non vorrei, ma penso che non sia così. In secondo luogo, questo è proprio il modo per far sì che ci siano delle persone, siccome saranno poche nel breve periodo le donne che hanno abitudine e attitudine a stare nei consigli di amministrazione, quello che succederà è che si creerà la stessa casta che in Norvegia viene chiamata delle gonne dorate, e cioè ci saranno quelle poche professioniste che vengono ritenute affidabili e che tutti quanti metteranno nei loro consigli di amministrazione, certo, perché evidentemente poche, nel breve periodo sono poche, quindi saranno messe dappertutto. A ciò aggiungo che in Norvegia, dove è stata fatta questa legge col 40%, nei 2 anni in cui c'è stata l'applicazione, la borsa norvegese è la borsa che è andata peggio di tutti, nonostante la Norvegia sia il paese che va meglio di tutti. Accidenti, colpa delle donne. Ti devo precisare, questo vuol dire che le donne sono incapaci? No, non vuol dire che le donne sono incapaci. Ma vuol certamente dire che non basta mettere delle donne per far andare bene. Professore, che vuol dire hanno poca abitudine, attitudine? Questa è un po' un'espressione da conservatore. Hanno poca abitudine, attitudine. Hanno poca abitudine. Nel senso che perché non ci sono. Ma certo, ma guardi, mi scusi, non è che il mondo è immobile. 30 anni fa non c'erano donne magistrato, oggi sono la metà. Non c'erano donne notaio, oggi sono la metà. Non c'erano avvocati, medici, commercialisti. Oggi le donne ci sono, ma perché la società evolve per conto suo, è da solamente 1 o 2 generazioni che le donne hanno accesso giuridico a certe professioni, che le donne sono la metà dei laureati, ma è la società. Quindi lei dice lentamente ci arriviamo, non c'è bisogno di leggi, ci arriviamo col tempo. Ci arriviamo, ma no, la società non è una società finalistica che ha uno scopo, la società evolve come evolvono gli individui. Per me ci sono gli individui, non ci sono i generi, non ci sono i neri, i bianchi, i rossi, le lesbiche, i gay, i transgender, perché non diamo le quote anche a loro? A questo punto avremo una bella consiglio d'amministrazione arcobaleno, arlecchino, deciso da dei parlamentari eletti su liste bloccate senza alcun riferimento elettorale, e saremo tutti più contenti. Sentiamo che ne pensa. La controobiezione sì. è stata molto peggio della perorazione iniziale. Sì. Molto peggio. Sentiamo Alberto da Perugia, che ne pensa? Buongiorno. Buongiorno Milan. Dica Alberto. Spenga sì. la radio però, gentilmente. Dica. Eccola. Io estenderei questa cosa non solo a livello societario, amministrativo, anche a livello dirigenza ministeriale e regionale, cioè per un semplice motivo. Lei non vorrebbe, quindi? È sì, favorevole. Perché le donne sono meno corruttibili. Oh, questo è un tema interessante. Grazie Alberto, è un tema interessante. So, Diana Zuncheddu, che ne pensa? Le donne sono meno corruttibili? Non so se io penso che sono appunto contrarie per principio a queste spesso forme si diceva le donne non fanno la guerra e quindi mettiamole a capo degli stati. Sì, poi ci sentiamo dire che la borsa va male perché ci siamo noi, cioè oltre no, a la beffa, no, no, no, no, no, non ha detto questo, no, non ha detto questo sto professor. Stressando il concetto, ma voglio dire, è chiaro che se si viene nominati per legge e non per merito, prima o poi qualcuno si alzerà a dire perché hai fatto quella scelta, che competenze avevi per fare quella scelta, dall'alto di che pulpito hai deciso, hai votato in quel senso. Insomma, a me sembra un'aberrazione proprio a livello di principio. Resta poi il fatto, ripeto, che magari queste leggi e tutte quelle che interessano il mondo della maternità e dell'aiuto alle donne, che ripeto dovrebbe concentrarsi su quel periodo che è il periodo più delicato, come diceva giustamente il professore, ormai tutte studiamo, ci laureiamo forse meglio degli uomini, quando lavoriamo siamo cazzute e anche meglio degli uomini, quindi che bisogno c'è di questi aiutini? Non siamo a 30-40 anni fa. Adesso il problema è nel momento in cui c'è quel evento che non possiamo delegare a nessuno, perché mamme lo diventiamo solo noi, e che quindi forse merita un aiuto di Stato per quanto sì. debba essere limitato. Intanto il titolo di un suo articolo sul Foglio è: non siamo panda, dateci asili e tate che nei CDA entriamo da sole. Onorevole Mosca, ha detto che mi pare che il ministro Tremonti abbia dato il suo benestare, no? Esatto. A questa proposta di legge, cioè andiamo avanti, abbiamo un minuto, insomma il professor De Nicola ha sentito, è molto molto duro, molto critica questa proposta, crede che andrà avanti, che si farà spazio in Parlamento? Ma diciamo lo scoglio più duro, che era quello di avere l'ok dal ministro Tremonti, l'abbiamo superato e quindi io sono abbastanza ottimista sul fatto che a questo punto si possa arrivare fino al termine, e replico a una delle argomentazioni, non a quelle un po' più sgradevoli sul piano personale, ma quella diciamo di concetto del professore, cioè il fatto che lui giustamente ha sottolineato che nella magistratura, nei concorsi pubblici, le donne sono diventate più della metà dei vincitori, ma questo è esattamente a conferma di quanto io sto proponendo. Laddove c'è un sistema con criteri trasparenti e con la possibilità per le donne di far vedere la loro bravura, sì. non abbiamo nessun bisogno di avere degli aiuti. Laddove invece ci sono dei sistemi che si auto rinnovano, che si conservano per l'appunto, invece siamo ancora tagliate fuori. Mi devo fermare qui, perché altrimenti se sforiamo succedono dei problemi che lei non si immagina. La ringrazio onorevole Mosca, così come il professor De Nicola e Diana Zuncheddu. Ci fermiamo con Antonella Migliaccio in redazione, Filippo Reggi in regia. La linea va a Oscar Giannino e noi ci troviamo domattina 7:20.